Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Novembre 2010. Avevo solo da poche settimane iniziato a collaborare con un quotidiano locale quando il fiume Bacchiglione ruppe gli argini e invase la frazione Roncaiette a Ponte San Nicolò, il mio comune, e poi in poche ore l'acqua raggiunse anche Casalserugo e Bovolenta. Furono giorni drammatici. Da giornalista alle prime armi, vidi da molto vicino molte persone perdere tutto. Vidi case costruite con il lavoro di una vita ormai preda dell'acqua, del fango, dell'umidità. Vidi mobili, divani, elettrodomestici ammassati negli angoli delle strade in attesa di venir portati in discariche. Ma soprattutto vidi, sentii la paura che tutto questo potesse capitare nuovamente. La possibilità, il timore di perdere tutto un'altra volta. Ma sono ben altri i ricordi che conservo. A differenza di quanto ci potremmo aspettare, impresse nella mente le scene dei disordini che la TV ci offre per disastri di questo tipo, le alluvioni del 2010 in Veneto hanno, oso dire, tirato fuori il meglio di ciascuno. Ho visto persone abbandonare la propria casa completamente allagata per soccorrere i vicini anziani e malati. Ho visto volontari in piedi anche per ore sotto la pioggia per aiutare chi si trovava in difficoltà. Ho visto case appena costruite, ancora profumate di intonaco fresco invase dal fango. E ho visto famiglie trasferitesi in paese solo da pochi giorni, accolte dalla comunità, in quei momenti drammatici, come fossero dei vecchi amici. Già, la comunità. Parliamo di bene comune, di vita sociale. È possibile in questo mondo condannato dall'individualismo parlare ancora di comunità? E cosa possono fare i cittadini per difendersi insieme da sciagure eccezionali come queste? Dal messaggio della CEI per la settima giornata della salvaguardia del creato, educare alla custodia del creato per sanare le ferite della terra. Per rispondere a questo stato di cose si invoca ormai da 20 anni a questa parte la privatizzazione della gestione di molti servizi territoriali. È però evidente che si tratta di una scorciatoia, una semplificazione indebita per beni la cui natura è e dovrà restare aperta a tutti. Il problema è allora la forma di gestione. Anche in questo caso sappiamo che dovrà essere più partecipata che nel passato. Giustamente, da più parti, si invoca la partecipazione diretta dei cittadini. Essa però sarà sterile se non crescerà a fianco di funzionari pubblici integerrimi e di imprese che scoprano l'intima dimensione sociale del loro operare nel mercato. Senza questa polifonia, la gestione del territorio è irrimediabilmente destinata a stonare. Abbiamo in collegamento, carissimi ascoltatori, Luca Boccon, consigliere comunale di Ponte San Nicolò, che proprio a Roncaiette vive. Grazie per essere con noi. Grazie a voi di avermi invitato a questa trasmissione. Boccon, lei può vantarsi insomma del triste titolo di primo alluvionato, in quanto insomma è stata una delle prime case che nella mattina del 2 novembre 2010 è stata invasa dall'acqua del Bacchiglione. Ci può raccontare qualcosa di quella triste fine nottata, inizio mattina? Sì, purtroppo ho questo, diciamo, onore, ho avuto la sventura di avere questa cosa che mi è capitata a me e alla mia famiglia, quel famigerato 2 novembre di ormai 2 anni fa. Eravamo praticamente alle 3 di notte, 3 e un quarto di notte, quando c'è stata la rotta del Roncaiette all'altezza della discarica del medesimo paese, che siamo stati avvisati in fretta e furia, anzi sono stato avvisato in fretta e furia da un conoscente che era venuto a sapere appunto che c'era stata sta rottura. Mi ha chiamato al telefono, mi ha detto: Luca, scappa perché si è rotto il fiume vicino a casa tua. Al che in quel momento non sai neanche proprio come comportarti, se è uno scherzo, cosa guardi fuori, è tutto buio, non sai quello che arriva, quello che c'è, insomma è una cosa veramente che bisogna provarla, perché è una cosa che non ti puoi mai dimenticare e ce l'avrai sempre negli occhi, perché vedere poi l'acqua che arrivava un po' alla volta e entrava nella tua abitazione, ti portava via tutto, è una cosa veramente da che non ti potrai mai scordare, insomma, ecco, da questo punto di vista è una situazione che non si augura a nessuno. Ecco, come ho detto prima, insomma, nei 2 anni da questa tragedia, mi piaceva ricordare non tanto i disastri ma la reazione positiva della comunità. Ho in mente le immagini di Roncaiete, ma non solo, ma di reazioni in tutto il Veneto. Le comunità si sono strette tra di loro e hanno affrontato un disastro che da soli umanamente non si può affrontare. Ci puoi raccontare qualcosa della reazione della comunità? Ma guarda, io personalmente sono stato allibito del comportamento della comunità, soprattutto di Roncaiete, perché alla fine in pratica tutta Roncaiete è stata interessata da questo disastro. Ma la compostezza che hanno avuto queste persone, ogni tanto andavo dentro il municipio a vedere com'era la situazione e lì c'era il punto di sfollamento dove c'erano tutti i cittadini di Roncaiete che hanno preso rifugio all'interno del municipio. E vedevi questa gente sì con gli occhi della disperazione, della paura, ma molto composti, molto tranquilli, ma questo poi si è manifestato anche nei giorni successivi quando l'acqua è rientrata e si è dovuto entrare nelle abitazioni, pulire. C'è sempre stata la massima veramente tranquillità, collaborazione e poi l'aiuto veramente grandissimo immane da parte del volontariato, di persone che arrivavano da ogni parte di Padova, dei comuni e venivano lì, si presentavano a casa tua. Io ho dovuto mandare via delle persone perché mi sono trovato il mattino che dovevo pulire e cominciare a entrare in casa, a tirare fuori tutti i mobili, buttare via. Decine di persone che sono arrivate, ovviamente ho detto guardi grazie ma siamo già pieni, nel senso che, quindi veramente una disponibilità da questo punto di vista di cui non potrò mai dimenticare e che anche i cittadini di Roncaiete penso non dimenticheranno. Ecco, non solo i volontari, i giovani, gli scout da fuori, ma anche tante persone che pur avendo subito dei danni hanno aiutato gli altri prima di aiutare loro stessi. Ma sicuramente ci sono state delle persone che personalmente sono venute da me, che loro stesse sono state alluvionate, pensa a te, avevano già i loro problemi. E solo perché io magari, o molti come me, hanno avuto veramente tantissima acqua, perché io vi ricordo ho avuto 1,50 m d'acqua all'interno dell'abitazione, si sentivano come in dovere di dare un aiuto e loro sono stati nella stessa situazione, perché vi ricordo che quando l'acqua entra in un'abitazione siano 10, 20 centimetri, 50 centimetri, 1 m, fa un disastro e quindi la situazione è uguale per tutti. Quindi sono stato stupito anche da queste persone che comunque si sono messe a disposizione degli altri. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. La vita è possibile e c'è qualcuno che fa di tutto. riesce a trovare, allora pensa di poter comprare ciò che la vita gli può regalare. Sono bimbi che non hanno futuro, perché magari qualcuno ha deciso. Ci sono bimbi che non nasceranno e se ne vanno dritti in paradiso, perché da noi non c'è posto per loro, o solamente non erano attesi. Ci sono bimbi che non nasceranno perché gli uomini si sono arresi. C'è qualcuno che fa di tutto per renderti la vita impossibile, e c'è qualcuno che fa di tutto per rendere questo mondo invivibile. A questo punto hanno trovato un muro duro, molto molto duro. A questo punto hanno trovato un muro duro, molto molto duro. Siamo noi, e siamo noi, e siamo noi, oh yeah, e siamo noi. Parlare di queste cose mentre si balla, ma anche quando sei in pista per ballare non bisogna mai smettere di pensare che sono tante le cose da cambiare e che bisogna cominciare. Siamo noi. Vorrei vedere i fratelli africani avere rispetto per quelli italiani. Vorrei vedere i fratelli italiani avere rispetto per quelli africani, per quelli americani, per quelli africani, per quelli americani, per quelli italiani, per quelli milanesi, per quelli palermitani, napoletani, Roma, Palermo, Napoli, Torino, get down. Siamo noi, get down. E c'è qualcuno che fa di tutto per renderti la vita impossibile, e c'è qualcuno che fa di tutto per rendere questo mondo invivibile. A questo punto hanno trovato un muro duro, molto molto duro. A questo punto hanno trovato un muro duro, molto molto duro. Blue Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori, siamo in collegamento telefonico con Luca Boccon, consigliere comunale di Ponte San Nicolò e uno degli esponenti dei comitati dell'alluvionati. Grazie per essere con noi. Grazie ancora a voi. Abbiamo prima raccontato le reazioni positive della comunità che si è unita e ha fatto fronte comune insieme contro il disastro. Ecco, qual è il valore aggiunto del far parte di una comunità e come far parte di una comunità può aiutare le persone che si trovano colpite da disastri così grossi? Beh, rispondo subito alla seconda domanda, nel senso che far parte di una comunità come quella in questo caso di Roncaiete, che veramente si è unita ed è andata incontro alle necessità, vuol dire già moltissimo, perché una persona che ha avuto una disgrazia come quella che abbiamo avuto noi, solo nel sapere che ha avuto tante persone che li ha aiutati e che le è andata incontro, vuol dire molto dal punto di vista morale e veramente nel continuare, perché veramente in quelle situazioni ti senti veramente a terra, e sapere però che c'è qualcuno vicino a te, vicino a casa tua, che è lì disponibile a darti una mano, credetemi, è una cosa molto molto importante, e questa vuol dire comunità, e la comunità nostra veramente da questo punto di vista è stata eccezionale, se non unica. Ecco, andando oltre il discorso sulla comunità, che è un valore importantissimo, per quanto riguarda l'alluvione in sé, si può rimproverare qualcosa ai politici e anche ai cittadini per quello che è successo? Ci sono delle cause, se ci sono, o se è solamente un disastro piovuto dall'alto? Ma guarda, la realtà è sempre nel mezzo, nel senso che prendo l'esempio in questi giorni, fatalità, cioè è stato il 49esimo anniversario del disastro delle Vajont. Anche lì ci sono state alla fine delle responsabilità che partono da tutti i punti, dalla politica, da chi amministra il territorio e veramente da un discorso più che altro di speculazioni. Quello che è successo nel nostro territorio a Roncaiete 2 anni fa parte secondo me dalle stesse identiche cose. Bisogna che la classe politica e dirigente veramente investa nel territorio, nelle opere necessarie per salvaguardare i propri cittadini dal mio punto di vista, perché veramente facendo ciò se ne guadagna sotto tutti i punti di vista. Noi personalmente facciamo parte anche di un comitato degli alluvionati e ci siamo battuti tanto per cercare di comunque portare a casa qualcosa, perché veramente molte persone hanno perso tantissimo. Sono stati fatti addirittura dei preziari per cercare un attimino di incanalare questi fondi che per fortuna comunque sono arrivati dalla regione, però alla fine la gente, diciamolo chiaramente perché adesso siamo andati a consultivo, alla fine la gente dovrà dare indietro dei soldi che invece gli spettavano di diritto. Ecco, ci può spiegare un po' come sono state queste dinamiche rispetto all'inizio? Io mi ricordo che era stato promesso un 75% dei danni subiti. Io posso dire tranquillamente, ma molto tranquillamente, che nel 90% dei casi, se non al 99%, nessuno riuscirà a portare a casa questo famigerato 75%, e questo è pacifico, perché con i preziari che sono stati fatti, con queste tabelle che sono state fatte, voglio dire, non è possibile per tutta una serie di conti matematici, ma ovviamente... Ecco, spieghiamo perché i preziari cosa sono? I preziari in pratica sono delle tabelle che sono state fatte per rimborsare ad esempio le varie perdite, ad esempio rifacimento dei pavimenti, acquisto del tavolo della cucina, acquisto della cucina, e lì è stato dato un prezzo per ogni tipo di lavorazione. Un prezzo standard, diciamo. Quel prezzo per rimborsare, quel prezzo viene dato il 75%. A parte il fatto che ci sono dei prezzi che, voglio dire, per sostituire dei pavimenti o delle piastrelle, sono talmente bassi, voglio dire, che uno, voglio dire, non neanche nei punti più peggiori può prendere quel tipo di mattonella. Poi ci sono tantissimi casi in cui tu devi dimostrare giustamente il lavoro che fai tramite fatture, ma io ho tantissimi casi di persone che, proprio perché non vogliono chiedere niente a nessuno, i lavori se li sono fatti loro col tempo proprio, perdendo il proprio tempo, e quel lavoro che hanno fatto alla fine non gli è riconosciuto. E molte di queste persone devono dare indietro i denari di anticipo avuti perché non sono riusciti a dimostrare quello che in realtà sono andati a fare. Veramente siamo in situazioni che persone che hanno avuto 1,5 metri di acqua, ok, devono dare indietro i soldi e hanno ricevuto veramente una piccola parte di quello che gli competeva. Quindi alla fine sì, sono state fatte delle promesse, c'erano dei denari giustamente a disposizione per gli alluvionati, però alla fine vedremo che quando si farà un consuntivo tanti di quei soldi purtroppo torneranno indietro. E perlomeno ci auguriamo che quei soldi che torneranno indietro siano però destinati alla salvaguardia dei nostri argini, perché in realtà il nostro canale, a parte quei pochi di interventi che sono stati fatti ad hoc dove c'è stata la rottura e altri piccoli interventi, è nelle medesime condizioni di 2 anni fa, e questo è molto preoccupante perché vediamo quello che succede ogni giorno. Basta una pioggia di una certa intensità e andiamo tutti sott'acqua. Ecco, un flash su questo, in conclusione. Forse il danno più grosso dell'alluvione è la paura che questa potesse ripetersi, perché se l'alluvione a memoria d'uomo non c'era mai stata da quella parte dell'argine, penso al versante destro, il fatto che di sapere che possa ripetersi è forse la violenza più grossa, cioè vivere nell'insicurezza che potrebbe ricapitare. Come una comunità può superare questo? Guardi, dico una cosa, non è vero che purtroppo le cose succedono con un tot di tempo, magari 30, 40, 50 anni, si dice guarda è successo, adesso chissà quando succederà, non è per nulla vero. Noi abbiamo avuto l'alluvione del 10 di novembre 2010, il 24 dicembre del 2010, e cioè alla vigilia di Natale, eravamo sugli argini perché stavamo aspettando un'altra alluvione, siamo arrivati a quello stesso punto del 10 di novembre, quindi non è vero che la cosa sia ciclica, è vero che però può succedere oggi come può succedere domani da questo punto di vista, e quindi i cittadini hanno paura, non vivono più come vivevano magari qualche anno fa, perché vedono che il nostro fiume, il nostro canale ha delle piene che sono completamente diverse da magari decenni fa, e questo è molto preoccupante, ed è molto preoccupante perché si vede che non si sta intervenendo radicalmente su opere che siano veramente necessarie ed importanti. Speriamo insomma che ci sia una maggiore attenzione. Grazie Boccon, e grazie per anche il suo impegno nei comitati. Grazie a voi dell'intervista e arrivederci. Grazie per essere stati con noi, gentili ascoltatori. Noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltare questa e tutte le altre nostre puntate sul nostro sito, e per contattarci potete mandarci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, l'appuntamento alla settimana prossima. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone, rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.